La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati da Franco D'Assisti, un saluto da Radio 24 con l'ora di cinema della Rosa Purpurea. Come sempre il sabato, come quasi sempre negli ultimi tempi, siamo stati un po' così fagocitati dai grandi fatti, ma era impossibile far finta di niente con tutto quello che è successo nella notte tra venerdì e sabato scorsi. La puntata, molti di voi l'hanno ascoltata in podcast, anzi io ne approfitto per ricordarvi la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea, Radio 24, per cliccando mi piace rimarrete in contatto con noi tutta la settimana e soprattutto potrete anche scaricare le puntate in podcast. Ma siamo di nuovo qui, siamo di nuovo nell'onda per parlare di tutto il cinema che c'è come ogni sabato, soprattutto di quello che c'è in sala, perché questa settimana ce n'è davvero tanto, c'è tanto cinema italiano. Avremo degli ospiti come Edoardo Leo, come Marco Giallini, come Sergio Rubini. È una settimana ricca di un cinema italiano che forse un po' si fagocita anche a uscire tutto insieme in questo modo, ma si sa, stiamo arrivando verso i freddi, verso le festività, e gli spazi diventeranno intasati inevitabilmente, perché questa cosa negli ultimi tipo 30 anni non l'abbiamo imparata. Ecco, i distributori italiani continuano a uscire tutti insieme nello stesso momento, e così uno teoricamente dovrebbe vedersi tipo 10 film a settimana. Detto questo, allora, in attesa che voi lo facciate, perché al cinema bisogna andarci, noi cominciamo a parlare del primo film, che si intitola Loro Chi. È proprio il film di cui vi accennavo poco fa, lo dirigono Francesco Micichè e Fabio Bonifaci, lo recitano Marco Giallini e Edoardo Leo, coppia che si riforma ancora una volta. Sentiamo la clip. Lui mi ha rubato tutto. Io sono stato in questa casa con questo Marcello per una innocente carbonara. Fa il chirurgo. Ma chi c'è andato in banca? Un vigile. Ma come non lo conoscete? Dove lo trovo questo padre Marcello? Come fa di cognome? So solo che ama i loro. Loro chi? Insomma, che cosa vuoi da me? Dove vai tu? Vengo io. Ma perché, non ti fidi? No. Che banda, noi siamo una famiglia. Come tutte le famiglie cerchiamo di arrivare a fine mese. Io non voglio soci, lavoro da solo. Anche se ho un colpo da 2 milioni di euro. Guarda che io imparo in fretta, eh. I loro, voi conoscete i loro? Il truffato deve supplicare per avere la sua truffa, perché io realizzo i suoi sogni. Genere commedia, come si suol dire, storia di un post giovane, David, 36enne, che finalmente vede l'occasione della sua vita passargli davanti agli occhi, quella di riuscire a fare un salto di qualità e anche di carriera nell'azienda per cui lavora. Dovrà presentare un brevetto particolarmente rivoluzionario e con questo sarà adorato e osannato da tutti, ma in una notte che come sempre porta consiglio, ma a volte anche un po' sfiga, cosa succede? Succede che il nostro incontra un truffatore che gli cambia connotati, vita e forse anche mestiere per il futuro. Questo è l'incontro scontro fra i due protagonisti del film, Marco Giallini e Edoardo Leo. Noi andiamo a collegarci con Boris Sollazzo, che ci racconta un po' cosa ne pensa di questa commedia, che ancora una volta sicuramente tende a strappare la risata, ma anche, nella tradizione italiana, a mettere a fuoco un po' una fotografia di una generazione. Pomeriggio a tutti. Poi sì, tenta di fare tante cose questa commedia, tenta secondo me di andare a pescare nel mito che hanno i due registi, che sono anche ottimi sceneggiatori, di chi scriveva prima di loro, delle generazioni precedenti, quindi una commedia all'italiana che racconta anche un'Italia cialtrona, un po' imbrogliona, un'Italia che si arrangia, un'Italia fatta di apparenze, che poi diventano fatti concreti abbastanza inquietanti. Verrebbe da dire, ma sarebbe ingeneroso, che non ci sono più gli sceneggiatori e nemmeno gli attori, con tutto il rispetto per Edoardo Leo e Marco Giallini, ma anche perché quegli attori erano Alberto Sordi, Nino Manfredi, e insomma, cioè, hanno ancora molto tempo per arrivare a quei livelli e sono secondo me due grandi attori. Il problema è proprio quello che sono tutti grandi professionisti in questo film, tutti ottimi talenti, e tutti però giocano di mestiere, nel senso che la commedia è scritta bene ma non a guizzi, strappa qualche risata ma non si esagera, i due attori sono molto bravi ma non ci mettono il cuore che li abbiamo visto mettere in tanti altri film, si impegnano molto, vanno bene insieme, sono due giocatori che sanno passarsi la palla, che conoscono gli schemi a memoria, ma non azzardano la rovesciata e il colpo di tacco. E ne esce fuori un film ordinario, Ed è una colpa per chi il campione ha dimostrato nelle ultime stagioni, continuando la metafora sportiva, che poteva metterla dentro in tanti modi diversi, che faceva calcio spettacolo e vinceva pure al botteghino. E il problema è proprio questo, che loro chi non ha il guizzo, non ha la dolcezza, non ha la tenerezza, non ha la forza, non ha la potenza, non ha neanche l'impatto visivo e narrativo che hanno i film in cui abbiamo visto anche separati Edoardo Leo e Marco Giallini. E dall'altra parte forse sconta il fatto di essere diretto da due che normalmente scrivono e più preoccupati di dare una quadratura al dialogo e alle scene che trattare l'insieme, che trattare l'emozione che dovrebbe arrivare da questo film. Quindi Loro Chi è il classico alunno che a fine anno viene promosso ma con un 6 stiracchiato, e siccome era però l'alunno che poteva essere potenzialmente il primo della classe, ti delude quasi di più di quello che viene bocciato. Potrebbe fare di più, come mi diceva spesso la maestra quando ero piccolo, ma penso che lo diceva a molti. Questo... A me continuano a dirlo. Potresti facere, se non sei bravo ma non si applica questa cosa. Allora facciamo così, visto che è già arrivato il momento di sentire la viabilità, sentiamo come vanno le cose sulle strade. Fra poco alla Rosa Purpurea ci sono Marco Giallini ed Edoardo. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, la Rosa Purpurea. Fra poco parliamo di Hunger Games, parte 2, diciamo la parte 2 dell'ultima parte, Il Canto della Rivolta, in realtà il quarto film che chiude comunque la saga, successo annunciato ovviamente, perché ha tutta una stirpe di fans e soprattutto un'attrice straordinaria come Jennifer Lawrence. Ma dobbiamo darvi ancora le interviste di Loro Chi. Cominciamo con Edoardo Leo, che racconta così il perché ha accettato questo copione. Lo penso veramente che questa sia la scena già dura più interessante dopo Noi e la Giulia. Chiariamoci. Che ho letto, perché nella lettura sono rimasto continuamente sorpreso, andavo avanti ed ero continuamente sorpreso e spiazzato, e spesso, soprattutto quando scrivi, nel mio caso ci sono degli strand di sceneggiatura che tu anticipi, nel senso che capisci che quella cosa poi ti porterà là, e quindi con la testa diceva vabbè, adesso mi farà vedere questo, adesso succederà questo, cerchi di anticipare come fa lo spettatore quando vede un film e vuole sapere chi è l'assassina, l'assassino cerca di indovinarlo prima. Qua invece c'era un meccanismo diverso da un punto di vista di struttura, e mi sono detto, quando ho chiuso, ho detto porca miseria, mi sarebbe piaciuto scriverla io, e ho chiamato subito Marco per sapere se l'aveva letta, perché mi sembrava proprio giusto, cioè quel personaggio era lui proprio, e quindi ho detto se lo fa Marco io ci sto subito, perché c'è stato un entusiasmo che insomma non è usuale. A volte i film li fai, capisci strategicamente quale vuoi fare, quale non vuoi fare, qui c'è stato un entusiasmo e l'ho voluto fare da subito, ho detto sì subito. Edoardo Leo al microfono di Chiara Pizzimenti, che ha raccolto anche invece da Marco Giallini una divertente aneddoto sul set. Questo film, devo dire, ha diverse chiavi, ha diversi livelli, no? Come dicevamo prima, di qualcosa che non si può dire, in realtà non si può dire, lo dico agli sceneggiatori, registi. Diciamo che quello che vedete alla fine, insomma, dall'inizio si capisce, ma anche alla fine, che non è forse così, insomma, a un altro livello, no? Tu te lo immagini, e poi c'è molta action, c'è molto, è un po' diverso dalle commedie, ma lo dico, si dice magari questa è una commedia diversa, ma qui è diversa davvero, c'è una macchina, stunt, cioè non è usuale, no? Per il nostro cinema, con la Maserati con la quale Leo si è divertito molto. Io sì, lui meno, perché l'ha distrutta. No, sei cattivo. No, non so, cattivo. No, l'ho distrutta. Andavo a marcia indietro, c'era il muro, vedevo dallo specchietto, non sapevo ci fosse un sedile del 700 di marmo, l'ho preso. Ma piano piano, bing, 25.000 di un fascione. Dire chi ha messo lì quella panchina, una roba, sì, di marmo che stava lì dal 700, dal 700. Chi ha messo lì quella panchina, l'ha chiamata. A momenti devo pagare sia la Maserati che la panchina, perché quello ha detto la Maserati, ha detto ma tu non sai che hai abbozzato qui. Ha detto la Maserati costa 100.000 euro, la panchina 2 milioni, dico. Ho dovuto fare una cosetta di mutuo per pagare questi due danni. Praticamente in questo film non ho guadagnato nulla, ma ho guadagnato in esperienza. Marco Giallini e le panchine di marmo. E allora, Loro Chi, il film con cui abbiamo aperto la Rosa Purpurea. Andiamo avanti con il ritorno, anzi la fine di Hunger Games, Il Canto della Rivolta, parte 2. Squadra 4-5-1, siete la mia unità. Ognuno di voi eccelle in qualche forma di combattimento. ma non siamo un'unità combattente. Sullo schermo voi sarete i volti noti dell'invasione. La squadra di stelle. Ci è stato fornito un olo. Un database che contiene una dettagliata mappa di Capitol e un elenco dei baccelli conosciuti. Quei baccelli possono innescare da bombe a trappole a ibridi. Qualunque cosa contengano, sono fatti per uccidervi. Signore e signori, benvenuti ai 76esimi Hunger Games. E allora, i 77esimi Hunger Games saranno gli ultimi della storia? Andremo a scoprirlo con il film che porta ancora la firma in regia di Francis Lawrence, la storia di Katniss Everdeen, appunto Jennifer Lawrence, che si trova insomma all'epilogo di questa storia. Ricorderete, cominciata con gli Hunger Games, con questa crudele pratica una volta l'anno di far confluire da tutti i distretti di Panem un tributo e poi a farli ammazzare fra di loro. Chi sopravvive sopravvive, Jennifer che si offre per salvare la sorella, e poi da lì parte tutta la saga. Siamo nella parte finale, siamo a quella in cui Katniss va in missione con la squadra, con i soliti amici e compagni di avventura nel distretto 13, dove cerca di mettere a repentaglio la vita del presidente Snow, il cattivo di turno, e chiaramente sta a voi poi vedere se e come ci possa riuscire. Io vi ricordo un cast come sempre altisonante tra Woody Harrelson, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Stanley Tucci. E allora, Boris, di solito i capitoli finali, è già successo in altre saghe del passato, i capitoli finali divisi in due portano con sé un po' di problematiche, soprattutto a livello di sceneggiatura. Il primo film di questi due non era stato male e comunque aveva abbastanza, come dire, rispettato le attese del pubblico, dei fans. Questa volta com'è andata? Anche meglio, questo è incredibile, nel senso che io l'unico film girato contestualmente e poi diviso brutalmente in due che ricordo aver avuto un crescendo era Kill Bill, che però erano solo due film. Poi gli altri film su divisioni di questo tipo come Matrix, Twilight, ricordo invece un andare a scendere. E qui è sorprendente, perché probabilmente siamo di fronte al miglior film della saga. Troviamo anche una maturità artistica da parte di chi era arrivato a questo racconto, diciamo, non dico immaturo, però chiaramente ancora non formato del tutto. Da Jennifer Lawrence a Francis Lawrence li troviamo maturi e straordinariamente talentuosi, e parlo anche di un regista in cui devo dire non credevo moltissimo all'inizio, perché mi sembrava molto scolastico, mi sembrava incapace di cavalcare le maggiori difficoltà che rappresentava questa storia, invece qui ci stupisce. Tra l'altro, probabilmente proprio all'ultimo, lo spirito del racconto della Collins sulle pagine viene colto in pieno, forse proprio nel capitolo che anche la tradisce di più nei dettagli, ma si riprende quella capacità che la Collins di fare un racconto distopico di quello che abbiamo già vissuto. Cioè, la Collins ha l'ossessione delle dittature fasciste e comuniste, e qui noi ritroviamo quell'ossessione per il dogma quasi orwelliana e quella capacità di raccontare strutture complesse di oppressione che forse negli altri capitoli, anche per l'attenzione che si aveva sulla ribellione, in particolare su Katniss, non c'era. E invece qui c'è anche un'analisi della struttura politica che per un film del genere non è scontato. Ecco, sorprendentemente ci ritroviamo di fronte a un grande film, perché coniuga bene alta qualità e pop. Devo dire che è promosso assolutamente a pieni voti quest'ultimo Canto della Rivolta parte seconda. E allora, promosso l'ultimo capitolo della saga di Hunger Games, noi andiamo a giocare invece con il nostro DVD game, con il film misterioso della settimana che dovete indovinare a partire da questa traccia. Eric! Devo uscire, cavalcare, per liberarmi da un sogno che ho fatto. È proprio stato un sogno? Talvolta dimenticate ciò che è realtà, ed io sono l'unico che possa ricordarvi che sbagliate. E allora, avete capito di che film si tratta? Scriveteci il titolo alla Rosa Purpure a @radio24.it con il vostro nome, cognome e indirizzo. Provate a vincere una delle due copie a disposizione per i più bravi e più veloci che indovineranno questo film. Fra poco vi faremo sentire un'altra clip. Allora, ancora torniamo al cinema italiano. Vi abbiamo parlato di Loro Chi, adesso l'altro film che, come dicevo prima, forse si condividerà un pochino anche una parte dello stesso pubblico. Stiamo parlando del nuovo lavoro che vede come protagonista Sergio Rubini. Si intitola Dobbiamo parlare, lo ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Amore, vuoi tu che io mi devo preparare ancora? Perché invece io sono pronto. Costi. Il famoso professor Verani se la fa con una zoccola. Tre minuti ci ho messo una valvola mitraglia che è squarciata in tre minuti. Manco alta velocità. Togliti le scarpe, stai bagnando dappertutto, caffone. Le loro voci le avete già sentite tutte. Nell'intero film ascolterete solo queste quattro e quella di un pesciolino a introdurre e concludere la storia. Sono Vanni e Linda, scrittore e ghostwriter, che vivono in affitto in un attico nel centro di Roma, al di sopra delle loro possibilità. A interrompere una loro serata irrompono gli amici borghesi e materialisti, Alfredo e Costanza, chirurgo e dermatologo. Tutti e due con scheletri nell'armadio. Se questo pensa di potersene andare con quella zoccola a costo zero, ha capito malissimo. Zoccola a costo zero è un grandissimo simbolo. Urla, accuse, offese in una mattanza di amore e amicizia, tutto in una notte. E al mattino si riparte, non tutti uguali. Lei si muove nei rapporti come se fosse al supermercato. Prende questo, prende quello, poi va alla cassa e si dimentica che deve pagare. No, Linda, invece devi pagare. Io non voglio essere infelice, io non sono come voi. Non ce l'ha! Hai un cuore, sei anaffettivo! Ma certo, sono un bancomat, tu avrai visto un bancomat che si emoziona. Questo bancomat è Fabrizio Bentivoglio con un inedito accento romano che lui stesso racconta come una delle sfide del film. E questa faceva parte anche, insomma, della sfida del prof, insomma, affrontare non tanto la sua provenienza, perché poi ci sono romani, come sappiamo, che poi parlano relativamente in italiano, invece poi ci sono altri romani e il prof è uno di questi, che pur provenendo dalla buona borghesia poi usano il dialetto quasi come un'arma contundente, ma è anche una corazza, è anche un modo per tenere a distanza un coinvolgimento un po' troppo forte, sia sentimentale o sia vuoi anche, vista la sua professione, nei casi umani che si trova ad affrontare. Insieme a Bentivoglio ci sono Sergio Rubini, anche regista e sceneggiatore, Isabella Aragonese, Maria Pia Calzone, la Imma Savastano della serie Gomorra. Tutti sempre in scena, e diciamo in scena perché l'impianto teatrale è evidente, tanto che prima delle riprese sono state fatte prove aperte in teatro per limare testo e personaggi. Carnage e Polanski dicono i più a sentire la trama, ma c'è altro, c'è la terrazza, c'è la stazione dello stesso Rubini. Si riflette sui rapporti umani perché il tentativo è quello di mettere a nudo i personaggi, anche quelli che sembrano più comici, si legga Bentivoglio, hanno alla fine drammaticità. Soprattutto il pubblico ride. È molto bello il film, è un grande finale, secondo me, che fa riflettere. E il film è meraviglioso, le interpretazioni sono eccellenti, poi così anche abbastanza naturali. Ci ha ricordato Carnage, però ci è piaciuta la spiegazione che ha dato il regista sulle peculiarità reali del film, che sono in realtà altre. E allora, la nostra Chiara Pizzimenti ha detto cinema che si fa un po' teatro, ha parlato di Carnage, forse anche il nome del figlio per dare un esempio più recente, Le Prénom nella versione originale francese. Il pubblico è convinto. Sentiamo invece cosa racconta proprio al microfono di Chiara Pizzimenti Sergio Rubini. Dobbiamo parlare è un'espressione tipicamente femminile, di fronte alla quale spesso gli uomini scappano, stramazzano al suolo, che genera un'inquietudine, un'ansia terribile. Il film appunto parte da questa voglia di parlare, da questa voglia di affrontare il non detto. Il film si sforza di mettere in campo dei quesiti. Certo, bisogna parlare, perché altrimenti, come dire, sotto traccia le cose poi assumono aspetti terribili e inaspettati. Però forse parlare troppo può generare pericoli, perché scavando vengono fuori poi realtà inaspettate, forse anche a noi stessi. Togliamo subito un dubbio: fa ridere questo film? Fa molto ridere, perché parla di noi, di amore, di tradimenti, parla anche di meschinità, ma ne parla con infinito affetto. Non parla della cattiveria dell'uomo, ma parla di alcuni obiettivi, anche racconta la difficoltà del vivere in una società che, come dire, vive una sorta di agiatezza che spesso e volentieri non sarebbe alla nostra portata, e quindi è l'affanno di voler vivere vivere una vita che probabilmente non potremmo, come dire, sostenere. Volevo raccontare una lunga notte che si trasforma in una sorta di happening e che al mattino restituisce al nuovo giorno alcuni personaggi, vedi la coppia borghese, identici a come li avevamo lasciati, e altri invece completamente diversi e trasformati. E anche Sergio Rubini allora ha raccontato Dobbiamo parlare. Adesso linea alla regia, fra poco torniamo insieme. Ancora un film, Iqbal, un film d'animazione italiano, un esperimento da seguire con grande attenzione. E poi Lello Arena per raccontarci il ritorno in sala di un capolavoro della comicità italiana come Ricomincio da tre. Angelo, non prendere impegni per il 2 di dicembre. Che cos'altro abbiamo in agenda? Ma è possibile che devo dirti tutto io? Saremo tutti alle 20:30 all'auditorium Gruppo 24 Ore in via Monte Rosa 91. Per Chiedimi se sono felice live. Sì, mi ricordo, l'ho segnato sull'agenda, segnatevelo in rosso anche voi. Sarete lì con noi, avremo diversi ospiti e parleremo della felicità. Che cosa ci rende felice dei nostri amici animali e come noi possiamo rendere felici. Per ricevere l'invito della serata dovete andare sul sito di Radio 24 e compilare il form dedicato all'evento. Ciao! La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, la terza parte si apre con un film d'animazione italiano impegnato, con dei temi, dei contenuti importanti, ma assolutamente a misura di bambino. Si intitola Iqbal, Bambini senza paura, e racconta la storia di un ragazzino di 10 anni che vive in un piccolo villaggio in una parte, diciamo, del sud del mondo, e a un certo punto va al mercato per vendere giocattoli, pietre colorate, recupera soldi per pagare le medicine necessarie a curare il fratello malato, realtà assolutamente esistenti in quella e anche in altre situazioni, e a un certo punto qualcuno, un adulto, gli si offre di comprare queste medicine in cambio del suo lavoro. Quanto durerà questo lavoro nella fabbrica di tappeti? Iqbal! Dunque, fammi capire, tuo fratello è malato e tu non hai soldi per le medicine. Sì, signore. Viene. Io faccio tappeti al mio paese. È tanto tempo che lavorate qui? Sì, ma è bellissimo! Questa è la fenice. È l'uccello più bello del mondo. Non può morire, sai? Perché ogni volta che muore, rinasce. Non avete il diritto di obbligarci a lavorare! Dovete darci le chiavi del mondo. Dovete ridarci il futuro! È un film d'animazione che per una volta è davvero importante che vedano soprattutto i bambini, perché il grande pregio di questo film è proprio quello di saper parlare al pubblico dei più piccoli di un tema che altrimenti potrebbe essere difficile, lontano, come quello dello sfruttamento del lavoro minorile. Ma è un film importante di un autore importante come Michel Fuselier, che è uno degli autori che da dietro le quinte hanno fatto da art director, da scenografo di film come La gabbianella e il gatto, Volere volare, quindi insomma è un grande e importante autore dell'animazione italiana, che in questo caso si sposa nella regia di questo Iqbal con un grande autore del cinema iraniano Tukur, Babak Payami. E quindi insomma c'è qualità, ma c'è anche l'importanza di un messaggio che deve arrivare, ripeto, soprattutto ai bambini. Boris. Bisogna vederlo, hai detto bene, si deve vederlo, perché ha il pregio di essere una favola quasi collontana a Sant'Exuperiana, nel senso che c'è qualcosa del Pinocchio, del Piccolo Principe, l'esemplarità di questi personaggi che fanno dei viaggi e incontrano persone che guardano il mondo in una certa maniera e nessuno glielo può permettere, e che arriveranno comunque a un processo di maturazione. E la forza di Iqbal è proprio quella, lo vedi anche nella bella animazione ma essenziale, e anche dalla retorica tipicamente bambinesca del protagonista, che parla ai suoi coetanei. Ecco, io sogno per questo film platee piene di coetanei di Iqbal, perché mai come in questo periodo è essenziale creare consapevolezza di essere delle persone, di non essere degli oggetti, di non essere delle appendici nei bambini, mai come adesso che vengono sfruttati forse nella maniera più subdola. Tra l'altro Phil racconta, prende spunto da una vicenda reale, quella di Iqbal Masih, il bambino pakistano diventato simbolo della lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile un po' in tutto il mondo. Voglio dire anche che se volete recuperare il cinema di Michel Fuselier, alla Cineteca di Milano continua, allo spazio Oberdan e al MIC continua Piccolo Grande Cinema, la rassegna di cinema per ragazzi, che ha proprio una retrospettiva dedicata a Michel Fuselier in occasione dell'uscita di Iqbal. E allora con questo film noi siamo arrivati al momento di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Questa sera l'ospite d'onore della nostra trasmissione è un attore inglese che non ha bisogno di presentazione. Tutti lo ricordiamo per il suo famoso film. Ora è giunto a Roma, dove interpreterà un film che ripropone in chiave western il mito evangelico della redenzione. Beh, questa introduzione, come dire, l'abbiamo tenuta un po' più lunga del solito perché è praticamente un invito a dirci di che film si tratta. Un film a episodi, ecco qui voglio darvi una mano, un film a episodi con nomi però veramente altisonanti della storia del cinema. La Rosa Purpurea, @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo e noi settimana prossima vi diremo chi ha vinto le due copie a disposizione. Un passo indietro, un salto nel passato, per la verità, con un film che è rimasto veramente incollato nella storia della commedia e del cinema tutto italiano. Stiamo parlando di Ricomincio da tre, Massimo Troisi, Lello Arena. Il film torna nelle sale solamente lunedì 23 e martedì 24 novembre. Ascoltiamo. Cioè, si sto dicendo che parte, no? E poi non. Ma no, non ce la faccio più, cioè. Quello che è stato è stato, basta. Ricominci da tre. Da zero. Eh? Da zero. Ricominci da zero. No signor, ricominci da. Cioè, tre cose mi sono riuscite in Davide perché ha già perduto pure questo. Che ha già ricominciato da zero, da tre. Straordinario Massimo Troisi, straordinarie anche le musiche del grande Pino Daniele, insomma, è un film che, come dicevo, ha segnato proprio un'epoca del nostro cinema e che potrete vedere in versione restaurata, come forse non si è mai visto neanche quando è uscito la prima volta. A raccontarlo, qui con noi alla Rosa Purpurea c'è Lello Arena, che non è solo il co-protagonista di questo film, è anche un vero protagonista insieme a Massimo Troisi. Grazie Lello di essere qui con noi alla Rosa Purpurea. Allora raccontaci innanzitutto quando e come siete arrivati all'idea di fare questo film e cosa ti era piaciuto di questa storia per fartela accettare. Ma considera che all'epoca, diciamo, la nostra attività persisteva su una, come dire, su una sorta di permanenza fisica di questo collettivo creativo. Di fatto abitavamo tutti insieme, quindi la cosa, come dire, nasceva anche tenendo ruoli e competenze, ma in condizione di assoluta presenza e permeabilità. Ecco, io non ho mai avuto l'idea che a un certo punto mi sia arrivata la sceneggiatura di Ricomincio da tre, perché è stata scritta da Anna Pavignano e da Massimo mentre stavamo tutti insieme, per cui le scene arrivavano una dopo l'altra e quindi, come dire, una creatura che ho visto nascere piano piano e poi avviarsi verso questi successi clamorosi, non ultimo questa idea della Cineteca Nazionale di ritenere che giustamente andasse preservato e restaurato e conservato per sempre a memoria futura di tutti quelli che vorranno vederlo. Io credo che Ricomincio da tre sia così attuale perché racconta una sensazione, un modo di essere che Massimo ha con grande generosità incarnato e fatto suo, che è un po' la storia di tutti noi e anche delle generazioni che, come dire, che non sono quelle nostre. E questa sensazione di essere sempre sbagliati nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, essere inadeguati e non avere forse, come dire, i mezzi successivi sufficienti per leggere la realtà che ci circonda, questa caratteristica ha reso il personaggio di Massimo non solo indimenticabile ma assolutamente contemporaneo, perché tutti viviamo, indipendentemente dalle generazioni e dagli anni, in questa permanente situazione di disagio. Questo fa sì che Ricomincio da Tre sarà di conforto per tutte le generazioni a venire, perché oramai, come si dice, è diventato un classico, e si diventa classici solo quando si fa qualche cosa che sia comprensibile e fruibile e divertente per tutti, perché oltretutto Ricomincio da Tre è un film comico che fa ridere, e non è poco. Lello, ci racconti un aneddoto, una storia, qualcosa che riguardi la vita sul set con Massimo Troisi in quel film? Ma io non lo so, io sono, diciamo, particolarmente legato a una sequenza di Firenze che poi ora, diciamo, e lo posso dire come se non fosse una se non fosse mai stato presente in quella sequenza, perché è diventata veramente leggendaria, ma tutto il giro in bicicletta, fatte leggere e tutto il resto è stato frutto di una necessità, perché un giorno un attore per ragioni di malattie non si era potuto presentare sul set, e quindi c'era un buco di lavorazione che andava assolutamente colmato per non sprecare la giornata, e quel giorno, insomma, ci siamo consultati su quale potesse essere una possibilità, e quindi, diciamo, la sequenza nella quale poi c'è questa ricerca dell'appartamento e della residenza a Firenze è stata rinforzata per, appunto, per ragioni di necessità. Durante le prove Massimo consentiva a tutti una grande libertà e anche la possibilità di improvvisare, ma il tutto veniva successivamente rivalutato e fatto diventare sceneggiatura e copione. Da quel momento nessuno più aveva la possibilità, come dire, di improvvisare impunemente. E grazie allora a Lello Arena per averci raccontato come sono andate le cose che hanno creato questo capolavoro che è Ricomincio da Tre. Ciao Lello, grazie. Ciao. E adesso Viabilità, fra poco torniamo insieme. C'è ancora un film di quelli che escono in sala in questo fine settimana di cui parlare, si intitola Miss Julie e ha un cast importante: Jessica Chastain e Colin Farrell. Ne parliamo. La rosa purpurea. When I was a little boy, lying there in secret looking at you in the garden, and saw you walking among the roses, I saw your slim white ankles. Well, I tell you now. La voce di Colin Farrell nella versione originale di Miss Julie, l'ultimo film di cui vogliamo parlare in questa puntata della Rosa Purpurea, fra le novità al cinema. Lo vogliamo fare con grande affetto per questo progetto, che è un progetto europeo e che i bergamaschi di Lab 80 portano con il solito rigore in giro per l'Italia. Sono molte le sale che hanno accettato questo film: a Bergamo, Trieste, Milano, Genova, Reggio Emilia, Parma, Torino, Venezia, Ferrara, Mantova, Varese. Insomma, c'è tanta Italia, a Ravenna, dove sarà il Mosaico Odessee Film Festival, e a Riccione. Insomma, è una sorta di film in tournée, se vogliamo, questo. Ma queste città che vi ho citato ce l'hanno già in programmazione, ed è un film che vale la pena vedere, perché Miss Julie intanto è tratto da un lavoro teatrale del grande drammaturgo svedese Strindberg, scritto alla fine dell'Ottocento. È una lunga storia d'amore, di corteggiamento e anche di un amore impossibile fra due ceti, un po' alla Titanic, diciamo così, che non possono parlarsi. Il servo, fra virgolette, Colin Farrell, uomo virile, seducente, ma anche un po' grezzo, fidanzato peraltro, e la nobile Miss Julie, che gioca un po' come il gatto, anzi la gatta col topo. Miss Julie interpretata da Jessica Chastain, la più bella rossa del mondo del cinema contemporaneo. È una bella prova d'attore, è un film in costume di grande fascino, di grande suadenza, e con una regista come Liv Ullmann, la ricorderete, attrice feticcio per un tratto importante della carriera del grande Ingmar Bergman. Pensiamola in Persona, pensiamola in Scena da un matrimonio, pensiamola soprattutto in Sussurri e Grida. Insomma, il materiale c'è tutto. Boris, ti chiedo in un minuto di raccontarci perché vale la pena vedere questo film. Affascinante, perché è un film di attori, perché appunto, come hai ricordato, Liv Ullmann, più prima che regista, è attrice ed è in qualche modo l'icona dell'attrice si è fatta utilizzare, tra virgolette, dal più grande regista di tutti i tempi, o da uno dei più grandi registi di tutti i tempi, riuscendo a percorrere vari registri, perché si prende un grandissimo autore che adesso non potrebbe pubblicare nemmeno una pagina, perché la sua misoginia nelle sue pièce è fortissima, è pazzesca. La donna esce fuori come un essere diabolico e fragile allo stesso tempo, e Lee Pullman non cerca di rivederlo e correggerlo, ma anzi lo rimette in scena in tutta la sua crudezza, sfruttando la grandezza del talento di Jessica Chastain per ribaltare l'ottica, cioè per dirci che l'atteggiamento che Strindberg considerava sbagliato, che Strindberg voleva punire nelle sue parabole, è invece un atteggiamento consapevole che va rispettato, e che quindi la tragedia non è più nell'atto della donna, ma in ciò che subisce quella donna che ha la sola colpa di essere libera. Ed è da grandi registi fare qualcosa del genere, perché Lee Pullman appunto non utilizza scorciatoia, semplicemente è lì e ha la capacità di renderlo moderno solo con lo sguardo. In più c'è una Jessica Chastain, come detto, straordinaria, una regia molto ordinata, molto intelligente, molto rigorosa. Forse l'unico piccolo difetto è un Colin Farrell che si limita a prendere un accento irlandese, a caricarlo moltissimo, a fare qualche faccetta di troppo e a rendersi solo fisicamente credibile, ma senza arrivare ai livelli della protagonista femminile, ma forse non si chiedeva neanche questo a lui. E tra l'altro è un film, così, un'opera che ha avuto già tante traduzioni cinematografiche, però questa, come, gli dà una freschezza, una contemporaneità proprio nelle gesta e nella fisicità degli attori che prima non c'era. Boris, grazie per averci raccontato Miss Julie e tutto il cinema che c'è, come sempre, qui alla Rosa Purpura. Ci sentiamo fra 7 giorni. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, siamo arrivati al momento di parlare del cinema da vedere in casa, cominciando con il game della scorsa settimana. La puntata non è andata in onda per radio, però è andata in onda per podcast e molti di voi hanno giocato. E allora noi il premio lo assegniamo lo stesso, ascoltiamo di che film si trattava. Ora ascolta, la vedi quella montagna di fronte? Sì, sembra vicinissima. Esatto, questo è quello che si vede da giovani. Si vede tutto vicinissimo, quello è il futuro. E allora, hanno indovinato per primi Natale Ciappina di Palmi, provincia di Reggio Calabria, e Corrado Lusardi di Novara. Saranno loro i due ascoltatori a ricevere Youth, la giovinezza, il film di Paolo Sorrentino che ha seguito La grande bellezza, premiata con l'Oscar. E allora, questo film, questa uscita, e noi abbiamo giocato col Blu-ray, ma in generale questa edizione ce la facciamo raccontare come sempre dagli amici di Film TV e da Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, versione Blu-ray e DVD per l'ultimo film di Paolo Sorrentino dopo il premio Oscar alla grande bellezza, un film, questo Youth, che si intitola Giovinezza appunto, ma racconta la vecchiaia, soprattutto l'emergere dell'emozione in un mondo asettico, in un cinema ipervirtuosistico, barocco e come chiuso in una bolla. Ottimo riversamento del film, ricco di extra, con interviste all'autore, un esclusivo backstage e le scene tagliate. La Warner Bros. Tra l'altro nel frattempo offre anche al pubblico un elegante cofanetto con tutti i film dell'autore. Andiamo alle segnalazioni dai palinsesti televisivi della prossima settimana, Giulio, cominciando con Malombra di Mario Soldati, in onda su Rai Movie mercoledì 25 novembre alle 6:30 del mattino. Sì, appunto, mercoledì alle 6:30 su Rai Movie Malombra, storia di Marina di Malombra, costretta dallo zio a vivere in prigioniera in una tetra villa sul lago di Como. Si crede la reincarnazione di una zia suicida e, guidata da queste suggestioni, si propone di compiere una vendetta nei confronti appunto del bobero zio. Dopo l'ottima prova di Piccolo Mondo Antico dell'anno precedente, Mario Soldati, grande intellettuale, regista forse dimenticato, porta sullo schermo quest'altro romanzo di Antonio Fogazzaro, e anche questa volta dà una convincente prova delle sue qualità di grande evocatore di atmosfere, di elegante e raffinato narratore per immagini. Un gruppo di interpreti molto efficaci, tra cui su tutto ovviamente Isa Miranda. Ovviamente non vi chiediamo di svegliarvi a quell'ora, ma potete anche puntare un registratore alle 6:30 su Rai Movie 25 novembre. C'è Malombra di Mario Soldati, mentre il giorno dopo, il giovedì 26 novembre, si cambia genere, si cambia tenore con La calda notte dell'ispettore Tibbs. Siamo nel sud degli Stati Uniti, un poliziotto scopre il cadavere di un industriale, il capo della polizia locale dà ordine di arrestare tutti i sospetti, tra cui anche un elegante uomo di colore che si rivela essere l'ispettore Tibbs della polizia di Filadelfia. Una pietra miliare del cinema liberal kennediano, ma anche soprattutto un buon poliziesco, con confronti duri, caratteri netti e con primari che si muovono sullo sfondo a fare da coro. Il poliziotto bianco Rod Steiger e quello nero Sidney Poitier ribaltano stereotipi e cliché etnici e di classe, dato che non si può prescindere dal fatto che il film è uscito nel 1967, quando in certi stati i neri americani venivano considerati proprio come uomini e donne di serie B. Ricordo l'appuntamento, la calda notte dell'ispettore Tibbs su Rai Movie alle 14 del 26 novembre. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine del nostro programma, come ci racconta la sigla che state sentendo. A me non resta che darvi appuntamento qui su Radio 24 sabato prossimo alle 18 e raccontarvi tutto il cinema che c'è, come sempre, alla Rosa Purpurea.